giorni a nulla, bestia persa nell'eco di una culla, che brucia mentre brilla, che l'oro d'un potente non compra, eroico bacio nella nebbia, mentre la solitudine, la stagna, il cannello rolla, ero e rabbia, lacrima asciugami, mia musa, devorando il tuo deserto, cuore regale con il mio sincrono batte, e ivi qui vi regna e abbatte, facciate di facce grasse, soddisfatte, a rintoccare di magre mie disfatte, schiene contro mure di stagne strafatte, risate tossiche in stazioni di ombre deragliate, amate, amate, amate, contro vento, contro mano di risate, sere stonate, distillate rime tra venti strascicati di lacrime di fate, in una banconota di lamette, parole di musiche inalate, periferie tossiche disarmate, dannate, di tavernelli, ubriaca le guance, le sbarre di dinamite di rime, digiuno cuore ad un amore, perdere, or si ove perdere, ancor scrive lacrime, poi nuovamente d'amor rincuorate, amami anche se ti perdo, mi perdo a schiaffi il tuo bacio, non valgo, amor tuo, io che son volgo.